Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ultimo appuntamento del 2015 insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben ritrovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. La vicenda era anche sulle prime pagine un paio di giorni fa dei quotidiani del Veneto, in particolare quelli veneziani, perché proprio veneziana è questa pensionata a cui continuano da anni ad arrivare cartelle esattoriali per un totale di oltre 500.000 di euro. E questa signora, Carlo, si è rivolta a voi per cercare di capirci qualcosa. Sì, credo che riceve 45 cartelle da parte di Equitalia in questo periodo, poi non è certamente una cosa che auguriamo a nessuno. Certamente una vicenda questa incredibile, perché riguarda una 80enne che appunto si è rivolta da noi qualche giorno fa proprio per contestarne gli importi ma anche i contenuti, soprattutto anche in ragione del fatto che insomma queste cartelle riguardano attività addirittura antecedente 1999, per la quale la signora aveva un negozio, ma una vicenda che si trascina da circa 27 anni. Dunque dovrebbero essere prescritte, così si dice, anche per le cartelle esattoriali, almeno per quanto la riguarda. Lei aveva ceduto questa attività, quindi non era più titolare, ma appunto Equitalia continua a chiedere soldi ogni anno, e poi credo si accumulino e aumentino. Sì, si accumulano, si aumentano, si rivalutano, eccetera, e si arrivano a cifre incredibili. A cifre in cui io penso che prima di poterne chiedere l'importo si dovrebbe ragionare se una persona a 80 anni è in grado di poter dare. Però di là di questa vicenda, anche noi come Adico adesso ci stiamo muovendo, abbiamo anche invitato la persona ad andare all'agenzia per chiedere dovuti chiarimenti, e questa in risposta gli hanno intimato un piano di rateizzazione. Ma si contesta anche il fatto che, oltre ai termini di prescrizione, certamente non è pensabile che oggi si possa ancora notificare cartelle a distanza di oltre 15 anni, in virtù anche di quelli che sono i sistemi tecnologici e controlli incrociati di cui insomma il sistema ormai dispone. O dovrebbe disporre, perché forse è proprio qui il problema, che se le cartelle esattoriali, che dove sono giuste per carità vanno pagate, ma il sistema dovrebbe essere molto più efficiente. Credo siamo molto lontani da questa efficienza. Sì, siamo molto lontani, e contestiamo anche di come il sistema permette poi a un importo richiesto a lievitare per effetto di una rivalutazione e di una sommatoria di oneri e accessori che alla fine poi mettono veramente in condizioni le persone a non pagare più o a non farcela. Certamente ci mettiamo anche nei panni di questa signora che insomma si è vista recapitare 45 cartelle e ha rischiato veramente di rimanerci secca, perché all'incredibilità della situazione poi sembrava addirittura che si trattasse di uno scherzo per la signora, ma alla conferma ricevuta dai figli, nel panico generale si è volta subito ai nostri uffici, i quali in queste ore sono al lavoro per capire un attimino come si è articolata la situazione, ma certamente anche per procedere alle contestazioni, in quanto i termini sono oltre a quelli previsti dalla legge, che permette a un'agenzia di riscossione di richiedere gli arretrati o i pagamenti, sempre che questi siano dovuti e quindi, come ripeto, in fase di accertamento. Quindi voi cosa chiederete per conto della signora, che venga di fatto tutto cancellato in quanto prescritto? Ma certamente tutto quello che si rientra nei termini di prescrizione lo andremo a contestare, perché comunque qua parliamo di termini di oltre 15 anni, ma di una vicenda che si sta trascinando da decenni, per cui in sostanza noi riteniamo che sia non sia dovuto pagare nulla. Però vogliamo anche andare a fondo per capire come fa un ente istituzionale a agire in questo modo e arrivare ad articolare un importo di questa entità, soprattutto a una persona che credo che qualsiasi persona possa avere un briciolo di intelligenza, difficilmente può proporre a una signora di 80 anni un piano di rateizzazione quando magari beneficia di una pensione minima. Ricordiamo che presso il vostro sportello fisico a Mestre in via Volturno, ma anche online su associazionedifesaconsumatori.it, c'è un'apposita sezione dedicata ai debiti e ai crediti. Sì, un'apposita sezione che si occupa anche di queste problematiche qua, e ricordiamo anche Mirko nell'occasione degli auguri di fine anno, che l'Adico durante tutto il periodo delle feste natalizie, a parte appunto il 31 pomeriggio, è aperta tutti i giorni. E quindi basta telefonare o rivolgersi direttamente tramite il sito, trovate i contatti associazionedifesaconsumatori.it. Nemmeno noi andiamo in vacanza, a parte i giorni segnati in rosso sul calendario, quindi il lunedì, Carlo, ci ritroviamo puntualmente, saremo già nell'anno nuovo. Allora, l'occasione a te e a tutti i tuoi collaboratori di un felice 2016, di un ringraziamento per questa collaborazione che è andata avanti anche per tutto questo 2015. Certamente un ringraziamento reciproco, perché senza di voi il nostro lavoro sarebbe inefficace, ritenendo l'informazione che facciamo la migliore prevenzione che i consumatori possono ricevere quotidianamente. Grazie Carlo, buon anno, a lunedì. A tutti e anche agli ascoltatori, grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.